parlavamo prima di incoerenza diffusa, ma va detto che su certe cose uno come Berlusconi una sua coerenza ce l'ha e nessuno gliela può negare. Così, nell'ormai celebre intervento televisivo di martedì sera, oltre a spiazzare i telespettatori, le diplomazie internazionali, i suoi ministri e persino Bruno Vespa in tema di ritiro delle truppe dell'Iraq, tanto sapeva già che il giorno dopo avrebbe ritrattato tutto, ha trovato il modo di ridire la sua sull'aggressione di cui sono state vittime a Baghdad Giuliana Sgrena e Nicola Calipari. E pur ribadendo che spetterà la commissione mista della cui istituzione si è tanto vantato fare chiarezza in materia, non ha rinunciato a fornire per intanto una sua verità. In Iraq, ci ha detto, c'è un clima di paura, di preoccupazione da parte delle truppe americane, sono militari molto giovani, sa, era una pattuglia, si è vista arrivare addosso un'auto a velocità. Insomma, è partita una offensiva d'avviso con proiettili traccianti e penso che una di queste raffiche sia stata sbagliata. Dichiarazione esatta e testuale, almeno stando a quanto riferito dal manifesto del giorno dopo. Ebbene, non so se avete notato che non c'era in questa offensiva d'avviso sbagliata, a parte i proiettili traccianti e lo sfoggio compiaciuto del gergo tecnico militare, non c'era nulla che chiunque non avrebbe potuto prevedere da solo con largo anticipo. Era la versione riveduta e corretta del vecchio e famoso colpo di avvertimento, quello con cui infiniti funzionari ai più vari livelli hanno cercato di spiegare negli anni infiniti incidenti dello stesso genere. E dai tempi di Scelba, perlomeno, che quando un manifestante resta sul terreno o uno scippatore in fuga viene colpito alla nuca o succede qualche evento deplorevole di questo tipo, un qualche esponente governativo deve presentarsi a spiegare che è stato un errore, che le forze dell'ordine, pur in stato di grande tensione emotiva e pericolo personale, hanno sparato per aria, o meglio, hanno esploso verso l'alto dei colpi che chissà come, invece di perdersi nel nulla, hanno raggiunto il bersaglio con la consueta micidiale precisione. Tutti, a partire da loro, hanno sempre saputo che si trattava di una spiegazione di comodo, scontata e abbastanza ipocrita, che tribunali e commissioni avrebbero finito magari per confermare. L'ultimo caso che mi viene in mente è quello di Piazza Limonta a Genova, no? Ma devono essercene stati dopo degli altri. Ma che non sarebbe riuscito lo stesso a convincere i cittadini, che non essendo poi così scemi come vi si immaginano, sanno benissimo che quando qualcuno viene colpito di solito è perché qualcun altro ha voluto colpirlo. Ma la ripetevano lo stesso, l'hanno ripetuta lo stesso sempre, con la stessa aria compunta impassibile, perché tanto a un certo livello di quello che pensano davvero i cittadini ci si preoccupa solo fino a un certo punto. Se il capo del governo si è piegato a questo malinconico rito, avrà avuto i suoi motivi. Non aveva, come i suoi molti predecessori, bisogno di difendere se stesso, perché della responsabilità di quel fatto per una volta nessuno avrebbe potuto accusarlo. È probabile che intendesse soltanto confermare la versione dei suoi amici americani. La perfetta corrispondenza dei due resoconti è stata subito rilevata persino dai giornalisti amici presenti in studio. Ma le sue motivazioni, in fondo, non ci interessano affatto. È più interessante notare come, nella convinzione di poter spacciare sempre e comunque la verità che fa comodo a lui, e l'uomo ritrovi l'unica forma di coerenza a cui oggi gli sia dato d'attingere.